raro sentirti parlare, non ti sai contenere, e ogni volta è una freccia nel cuore che non mi fa respirare, ma il silenzio dà solo rancore e fa ancora più male, ti tormenta e ti fa disperare, e allora tanto vale. Quante piccole bugie ci avvelenano la vita, ognuno tiene dentro sé la sua anima segreta, le tue ragioni con le mie si riflettono su un vetro e cerco un modo per tornare indietro. Amore mio, stringimi le mani, potrei morire a star così lontani. Vorrei che mi dicessi che non ti sei già resa, mi basta il tuo sorriso per incominciare. Amore mio, stringimi forte le mani e voleremo come aeroplani verso l'alto più su, dove il cielo sei tu, oltre le nuvole. Ti ricordi dei nostri vent'anni, delle tante ambizioni, quella vita in comune, quei sogni sono rimaste illusioni, ma quell'immagine di noi come un chiodo nella mente, sempre nitida però ogni volta più distante, non esiste che è finita, non accetto un'altra vita, sei solo tu la via d'uscita. Amore mio, dimmi che mi ami, voglio sentir tremare ancora le tue mani, raggiungeremo il mare come la prima volta e fermeremo il tempo per ricominciare. Amore, amore mio, apri le tue ali e voleremo come aeroplani verso l'alto più su, dove il cielo sei tu, oltre le nuvole. Dai, proviamo ancora, come la prima volta, a far scoppiare il cuore e ricominciare. Amore mio, stringimi forte le mani.